Lectio epistole beati Pauli apostoli ad Corinthios. Lectio epistole beati Pauli apostoli ad Galatas. Lectio epistole beati Pauli apostoli ad Philippenses. Lectio epistole beati Pauli apostoli ad Titum. Lectio epistole beati Petri apostoli. Lectio libri Apocalipsis beati Ioannis apostoli.